Prossima fermata, Radio Città Fuscico. Fermata provvisoria. Una tappa della musica di domani. E bentornati a Fermata provvisoria, io sono Samuele e oggi parleremo di una band che si chiama Picture of Troy J. Nati nel 2011, i quattro ragazzi umbri fanno punk rock, pop punk, ispirandosi a band come Sum 41, Offspring e Green Day. L'elemento particolare per questo tipo di gruppo musicale è sicuramente quello delle tastiere, che si incastrano perfettamente nel tessuto armonico delle loro canzoni. Nel 2017 esce il loro primo album omonimo, da cui vengono estratti i singoli Sounds from Underground e UFO, uscito il 25 ottobre 2019, che rappresenta un po' in generale quello che è il sound della band, quindi un mood spedito e un riff che fa venire voglia di ballare e muovere la testa. Ne andiamo a parlare direttamente col batterista Dennis Selvaggi, ma prima ci ascoltiamo Sounds from Underground. A fra poco. Ciao Dennis e benvenuto su Radio Città Fuscico. Buongiorno a tutti, salve. Ciao, allora innanzitutto raccontaci un po' com'è nato il vostro progetto. Il nostro progetto è nato nel 2011 più o meno, da un semplicissimo gruppo di amici, già ci conoscevamo dalla scuola, più o meno abbiamo tutti la stessa età, e se poi si sono uniti per ultimi due componenti più giovani, e al basso Michele Bartolucci e alla chitarra da poco più di un anno Andrea Billi. che hanno completato il quadro del gruppo. Ok, e fate un genere molto diretto, molto immediato, no? Però con un elemento anomalo per una band del genere, che sono le tastiere. Quindi come si mescolano insieme questi fattori che apparentemente sono molto distanti? All'inizio è stato un po' difficile, anche perché ecco, partivamo da un concetto, da un genere musicale abbastanza, come dicevi tu, immediato, diretto. E col tempo però abbiamo capito come ci siamo addolciti un po' tutti, e con l'aiuto delle tastiere del maestro Troy J, che poi anche dà anche il nome al nostro gruppo, diciamo, prendiamo il nome da lui, diciamo, abbiamo intrapreso questa, con la mancanza, per necessità, dato che non avevamo una chitarra solista, abbiamo dato a lui il compito di caratterizzare i nostri pezzi. Poi man mano, con il passare del tempo, abbiamo lavorato su questo, abbiamo sviluppato la sua influenza sui nostri pezzi, finché poi è arrivato anche una chitarra solista dopo tanto tempo che la cercavamo, e adesso stiamo lavorando ancora, siamo sempre, diciamo, in evoluzione riguardo a questo argomento. Certo, e il nuovo singolo UFO è uscito il 25 ottobre, ci puoi parlare di questa canzone? Te ne parlo, guarda, proprio con una grande felicità, perché è una delle mie canzoni preferite, di tutte quelle che abbiamo fatto, poi anche perché il ritornello è opera mia, che poi sono il batterista della band. Mm-hmm. Ma era un periodo nel quale sentivamo questa esigenza di dover parlare di questo argomento, quando nessuno ne parlava. Allora è venuto questo pezzo, che è molto ironico ovviamente, e anzi invito tutti gli ascoltatori nel andare nel nostro sito e leggere anche il testo, perché è molto simpatico, direi che è poi il pezzo che caratterizza il nostro sound, è quello che noi piace proporre al pubblico anche nei concerti, e il nostro cavallo di battaglia. Senti, invece, riguardo all'album omonimo uscito ad aprile 2017, cosa ci puoi dire a livello musicale ma anche tematico? Guarda, partendo sempre da UFO, che è la canzone secondo me che caratterizza molto questo album, che dà l'impronta a questo album, con due o tre anni di lavoro abbiamo prodotto questo album, che si sviluppa su quella linea. È un album, io lo molto molto gioioso, lo chiamerei così, lo chiamerei apostrofando anche colorato. È un album, secondo me, dove si possono trovare varie sfaccettature, sempre però partendo dal nostro genere, che è un genere che comunque punta a intrattenere il pubblico, a rilassare, senza dover trattare temi complicati o melodie melodie complicate, ma serve a catturare l'attenzione, a regalare un po' di piacere a chi ascolta. È un album spensierato, lo definirei. A few weeks ago, Riverdale, Illinois was just another quiet small town. Then on that Saturday shortly after midnight, a living nightmare began. Hey man, I'm finding aliens everywhere. I don't see. parte. Ti faccio una domanda un po' più ampia adesso. Certo. Cosa ne pensi, anzi, cosa ne pensate voi band del panorama rock italiano attuale? A me, sinceramente, ultimamente sto rivalutando, mi sto reimmergendo, dato che avevo perso un po' questa cosa, nell'underground, e sinceramente trovo ci sono band molto interessanti. Ovviamente sappiamo che poi è difficile andarle, trovarle nella grande distribuzione, però io sinceramente trovo che ci siano tante band interessanti e sinceramente andrò controcorrente, ma con internet io riesco a trovare tutto ciò che voglio per quello che riguarda la musica rock e il panorama rock. Sì, certo. E all'interno di uno scenario del genere come si fa secondo voi a proporre qualcosa di diverso e di originale musicalmente? Questo credo, a parere mio, che sia quasi impossibile, nel senso che, perché poi di originale è duro, insomma, ci vuole, credo, anche tanta fortuna, proprio quando si va, fortuna e studio soprattutto, per cercare di trovare qualcosa di veramente originale. Oppure ci vogliono delle piccole folgorazioni, secondo me, che ecco, non sono per tutti, credo. Ok. E per quanto riguarda invece il vostro genere, quindi il pop punk, il punk rock, com'è secondo te la situazione attuale? Noi, anche parlando fra di noi, anche con altre band, l'unico problema veramente grande che trovo è sul trovare l'organizzazione a livello live, trovare locali, e questa è la cosa più difficile per quello che riguarda noi band emergenti e band comunque punk, pop punk. È difficile trovare live, magari riuscire a avere una certa costanza sopra il palco. Beh, l'unica cosa che trovo che c'è di più complicato al momento, però se no, per quello che riguarda anche idee, c'è tanta gente disponibile, tanti ragazzi che seguono anche, quindi sinceramente anche noi nel nostro piccolo, anche a livello locale, è bello vedere che la gente reagisce a dei stimoli e a un genere di musica che sinceramente non è proprio pubblicizzato al massimo, diciamo così. Sì, ecco, stavi parlando di live, no? Quindi avete concerti in programma prossimamente? Al momento non li abbiamo, perché stiamo entrando in studio di registrazione per il secondo album. Ah. Ci stiamo concentrando praticamente, ci stiamo concentrando esclusivamente sulla stesura dell'ultimo brano per completare il nuovo album. Praticamente abbiamo deciso di, siccome stanno venendo a parere nostro abbastanza bene e ci sarà anche delle novità riguardo ai nostri pezzi, anche al nostri sound, abbiamo deciso di introdurre qualche rock ballad, e quindi ci stiamo impegnando tanto su quello, e abbiamo qualche data prevista per la prossima primavera. Bene, allora vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e grazie mille per l'intervista. Grazie a voi. Grazie, ciao. Ciao. Here's another.